697. Pesche ripiene. Pesche spicche grosse, poco mature, numero 6. Savoiardi piccoli, numero 4. Zucchero in polvere, grammi 80. Mandorle dolci con 3 mandorle di pesca, grammi 50. Cedro o arancio candito, grammi 10. Mezzo bicchiere scarso di vino bianco buono. Dividete le pesche in 2 parti, levate i noccioli, ingrandendo alquanto i buchi ove stavano con la punta di un coltello. La polpa che levate, unitela alle mandorle già sbucciate, le quali pesterete finissime in un mortaio con grammi 50 del detto zucchero. A questo composto unite i savoiardi fatti in bricioli e per ultimo il candito tagliato a piccolissimi dadi. Eccovi il ripieno col quale riempirete e colmerete i buchi delle 12 mezze pesche, che poi collocherete pari pari e col ripieno all'insù in una teglia di rame. Versate nella medesima il vino e i rimanenti grammi 30 di zucchero e cuoceteli fra 2 fuochi per servirle calde o diace a piacere e col loro sugo all'intorno. Se vengono bene, devono far bella mostra di sé sul vassoio e per una crosticina screpolata formatasi alla superficie del ripieno prenderanno aspetto di pasticcini.